Allô les amis, abbracciamoci tutti e tutte e brindiamo perché oggi è arrivata la fuga. E che fuga! Questa è la nuova puntata di Extra Extra e questa arriva al termine di una giornata di festa al tour con tre grandissimi attaccanti come Carapaz, Simon Yates e Mas che arrivano uno dietro l'altro e con un'altra lotta sontuosa tra gli uomini di classifica tra Pogacar, Evenepoel e Vingegaard. Che sono veramente tre corridori che sembrano giorno dopo giorno un regalo fatto dagli dèi agli appassionati di ciclismo. Noi per oggi parliamo di fuga, sono arrivate le fughe, o meglio parliamo anche di fughe, parliamo di Tour de France, parliamo di tante cose, è un caso raro che le fughe arrivino in questo tour e questa puntata non era programmata per coincidere con una giornata di fuga, ma il destino ha voluto che sia stata registrata ieri insieme a un fuggitivo per eccellenza. Ovviamente si parla di Alessandro De Marchi, una voce che chi segue i nostri podcast ha imparato ormai a riconoscere molto bene. E ieri, come d'abitudine ormai, come vi sarete abituati, abbiamo fatto la nostra intervista asincrona. Non ci siamo sentiti al telefono perché tutti e due abbiamo delle giornate belle piene e non riusciamo a trovare i momenti per dialogare, ma abbiamo chattato con dei vocali e ci siamo così confrontati su questo tour. E non solo, prima di parlare di tour però sentiamo come sta Alessandro De Marchi e cosa sta facendo in queste settimane. Buongiorno ragazzi, ciao. Spero di trovarvi bene. Io sto bene, mi sono rimesso all'opera da un paio di settimane quasi ormai, dopo una breve ma meritata pausa. Ho passato un po' di giorni in montagna con la famiglia e adesso mi sono rimesso sotto, appunto sono un paio di settimane che mi alleno per le prossime corse. Sono principalmente a casa nel caldo friulano e mi sto concentrando insomma su riprendere un po' gli allenamenti in vista saranno delle gare in Spagna la settimana prossima, poi un po' di altura e poi vediamo se riesco a guadagnarmi il posto per una vuelta o insomma il resto del programma. Sto un po' seguendo il tour, sì, perché rispetto a altre gare che difficilmente guardo, in questi pomeriggi ho insomma un po' di tempo tranquillo. Fondamentalmente mi concedo un po' di riposo di solito dopo gli allenamenti, soprattutto per il caldo. Di solito parto abbastanza presto, quindi primo pomeriggio mi trovate sempre sul divano, come in questo momento, davanti al tour, quindi un po' di riposo, un po' di stretching, qualche esercizio e intanto la tappa va finché poi non si svegliano i bambini e lì inizia di nuovo l'altro circo, però me lo sto godendo, dai. Visto che il tour lo sta guardando pure lui, come immagino tante di voi che mi state ascoltando, allora parliamo di questa gran boucle e ho chiesto al Dema, ad Alessandro De Marchi, cosa lo ha fatto particolarmente felice di questo tour visto in televisione, ma anche quello che non gli è piaciuto. Ma in generale devo dire che questo tour ci sta offrendo insomma un grande spettacolo. Onestamente sono contento di vedermelo in televisione, non so se avrei avuto le stesse sensazioni a essere in gruppo, ecco. Però insomma lo spettacolo è grande, stanno davvero correndo in modo un po' pazzo ogni tappa e forse anche ripensando un po' al giro devo dire che tutti gli schemi a cui siamo stati abituati in questi anni stanno saltando, non ci sono più quelle regole non scritte a cui siamo stati abituati, no? In generale col ciclismo di alto livello e quindi tutto un po' imprevedibile, ovviamente insomma chi è seduto sul divano se la gode, sicuramente gli viene offerto un qualcosa di nuovo, di diverso, è inevitabile questo. Cosa è che non mi è piaciuto invece? Ma direi che la cosa che non mi è piaciuta è che sono arrivate pochissime fughe. Sono arrivate pochissime fughe, pochissime azioni da lontano, pochissime azioni anche un po' come una volta, no? E mi collego al discorso di prima, insomma appunto gli schemi sono un po' saltati, però questo cambio di paradigma un po' alla fine sta penalizzando quel tipo di azione, quel tipo di ciclismo lì. Sarebbe stato bello, insomma, poi magari in questa ultima settimana le cose cambieranno, però sarebbe stato bello vedere qualche tappa con insomma dei fuggitivi a giocarsi le tappe, la vittoria, i risultati, perché insomma fa bene un po' credo a a tutto il gruppo avere, che c'è, ci sia la possibilità, insomma, di giocare per i grandi risultati anche per chi è, insomma, tra virgolette, insomma, di seconda fascia, diciamo, mettiamola così. Quindi questa è una cosa sicuramente che forse un po' non mi è piaciuta e spero ci sia un'inversione, un cambio di rotta in questa ultima settimana. Come sapete, Dema è ormai anche una figura di riferimento del gruppo, è uno dei veterani, non si offenderà se lo definisco così, e quindi gli ho chiesto quale fosse il suo rapporto con Tadej Pogačar, col quale ovviamente ha corso il giro di quest'anno, e che potrebbe essere quasi un suo vicino di casa in quanto sloveno, anche se solo sulla carta, perché da Buja a Komenda ci sono 150 km di distanza, per lo più di montagne. E soprattutto perché, come sappiamo, Poggi vive a Monaco e non in Slovenia. La figura sicuramente emblematica di questo tour è sicuramente Pogačar, ha letteralmente, insomma, messo nel mirino la corsa quest'anno e questa doppietta è stata preparata minuziosamente e insomma si vede che adesso sta veramente dando spettacolo, sta volando. E io non lo conosco benissimo, devo dire molto poco, in quelle poche occasioni che ho avuto, insomma, ho scambiato qualche parola, gli ho fatto ovviamente spesso i complimenti, però sì, è insomma, personaggio che devo dire mi piace vedere lui, è un po', non so, io ho in mente questo paragone, ogni tanto nello scontro tra Vingegaard e lui mi pare di vedere Stallone e Ivan Drago in quel famoso, quella serie di film dello Stallone pugile, e perché Pogačar mi sembra cuore, coraggio, improvvisazione, no? Mentre ha a che fare forse con un atleta un po' più, diciamo, freddo, ma insomma, non lo dico in modo cattivo, un po' più freddo, un po' più calcolatore. E sono questi estremi, questi antipodi che si scontrano. E sicuramente, insomma, Pogačar è più, mi sembra più un artista, ecco. Va davvero di improvvisazione, molto, molto di istinto, e questo, insomma, fa bene a tutto quanto, no? Fa bene allo spettacolo. Al giro mi ricordo che ogni tanto lo guardavo quando era là in terza o quarta fila a godersi lo spettacolo e pensavo che per lui ogni giorno era una popcorn stage, nel senso che lui si metteva là, era come se avesse in mano il popcorn e si godeva lo spettacolo di chi provava ad andare in fuga, di chi lo attaccava, eccetera, eccetera, no? Lui era lì che se la godeva. Quindi anche con i miei compagni della Giaicola si è sdoganato questo termine, no? Devo dire che insomma gli calzava bene, ecco. Ecco, confesso che Pogačar in versione Rocky Balboa era una cosa che non avevo mai sentito. Anche se, caro Dema, sul Vingegaard calcolatore mi trovo molto poco d'accordo, ma mi piace in questo ciclismo fatto di rivalità che comportano sempre nuove letture. Bisognerebbe a questo punto trovare un posto cioè un ruolo di Rocky per Remco Evenepoel, non so, potrebbe essere Apollo Creed, forse. In conclusione di questa chiacchierata asincrona, che potrebbe anche essere l'ultima, così l'ultimo extra di questo genere in questo Tour de France, ho chiesto ad Alessandro De Marchi le sue aspettative su ciò che rimane del Tour, da un punto di vista che potremmo definire quello di tifoso, perché questo è quello che sta facendo il Dema in questo Tour. E premetto che questa chiacchierata è avvenuta nel parecchio tempo libero lasciatoci dalla tappa di ieri, quindi i riferimenti temporali, insomma, vabbè, ascoltatelo. Secondo me Pogačar ce la farà, a meno di cose eclatanti. Lo vedo là in maglia gialla, a Nizza. Ci sarà, secondo me, la crono sarà una gran bella sorpresa per tanti. Insomma, per tanti ci potrebbe essere qualche ribaltamento della classifica l'ultimo giorno, ma non credo ai piani così alti. E poi ancora, sì, una volta, mi auguro che arrivi qualche fuga, che ci sia qualche fuga in questa ultima settimana e più in generale, ecco. E poi spero che i miei compagni della Giaico riescano a mettere un altro sigillo. Secondo me il buon Yates, uscita un po' di classifica ce la potrebbe fare e vediamo, speriamo. Intanto comunque godetevelo anche voi. Ciao. Viva la fuga, quindi, l'abbiamo detto tutti e tutte tante volte, non c'è giorno migliore per ribadirlo, non lo si è mai detto abbastanza. Vediamo e speriamo, come dice il Dema, e proprio oggi, dicevo, ne abbiamo parlato ieri, e proprio oggi Simon Yates, compagno di squadra di Alessandro De Marchi, ci è arrivato vicinissimo e chissà che nei prossimi giorni non riesca a far felice il Dema e con lui tutti noi, se non sarà Simon Yates, che sia qualche altro fuggitivo a rinnovarci questa gioia che abbiamo vissuto un po' di rado lungo questo Tour de France. Dunque accolgo l'invito e lo rilancio. Godiamocela. A bientôt.